Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente oggi la fanno da padrone i dati diffusi dalla Commissione Europea, che vedono per quello che riguarda l'Italia una revisione leggermente a ribasso sulla crescita per quest'anno. 0,8% l'anno scorso e 1,4% quest'anno, 1,3% nel 2017. A novembre Bruxelles stimava uno 0,9 per l'anno scorso, un 1,5 per quest'anno e un 1,4 l'anno prossimo, cioè lo 0,1 in meno su tutti e tre gli anni. Bruxelles poi aggiunge: l'economia italiana, dopo essere cresciuta moderatamente nel 2015, guadagna slancio nel 2016-2017 grazie alla domanda interna. Staremo a vedere, lo dico senza scetticismo, ma con il realismo della ragione, perché in questi anni più volte Commissione Europea, OCSE, Fondo Monetario ci hanno, ahimè, abituato a revisioni delle revisioni, e devo dire nella stragrande maggioranza dei casi quasi sempre a ribasso. Però teniamo per ora buone queste previsioni di inizio anno. C'è poi la frase sull'inflazione e il dubbio su cosa abbia detto esattamente Mario Draghi. Perché lo dico? Perché c'è una frase in cui lui dice conspiracy, cioè, allora, alcune agenzie hanno tradotto: ci sono forze nell'economia globale di oggi che cospirano per tenere bassa l'inflazione, però la traduzione potrebbe essere anche concorrono, lo dico dall'inglese, poi lo ascolteremo. Non è una differenza da poco, non è una differenza solo terminologica, perché quando parla il Presidente della Banca Centrale Europea un conto è sentir dire che vi sono forze che cospirano per tenere bassa l'inflazione, altra cosa sente dire che vi sono forze che concorrono. La differenza è evidente a tutti. E anche di questo parleremo, ma dicevo, Draghi, preoccupato per la bassa inflazione, ha detto che la Banca Centrale Europea non si arrenderà davanti alla bassa inflazione. I rischi di agire troppo tardi superano quelli di agire troppo presto, quindi meglio essere muoversi un po' prima che un po' dopo, traduciamo noi. E rivedremo la politica monetaria, visto che i rischi verso il basso sono di nuovo aumentati in presenza di maggiore incertezza riguardo alle prospettive di crescita. Questo, unitamente, diciamo, all'andamento alle previsioni di Bruxelles, sarà uno dei temi nella seconda ora. Soprattutto nella prima ora avremo ospite il presidente delle banche italiane, Patuelli dell'ABI, che abbiamo invocato ed evocato la settimana scorsa per un tema molto semplice, cioè qui c'è stato un problema non di comunicazione, perché noi abbiamo capito male, ma un atteggiamento che ha minato anche la fiducia dei clienti delle banche, perché per troppi anni ci siamo sentiti dire che le banche italiane erano diverse, che le banche italiane non avevano prodotti tossici, e che insomma sostanzialmente si è voluto credere a questa favoletta, come se appunto il calo del PIL o della produzione industriale del 20% non andasse a intaccare poi le sofferenze, o meglio i crediti bancari, trasformandoli in sofferenze. Per quello che riguarda la borsa, oggi c'è un recupero, devo dire, più forte a Milano che nel resto delle borse europee, così come i cali erano stati più forti a Milano che rispetto alle altre borse europee. Parigi guadagna infatti lo 0,20%, Francoforte perde lo 0,30%, Londra guadagna l'1,60%, il Dow Jones più 0,40%, Milano guadagna l'1,60%. In evidenza titoli ieri molto penalizzati, penso intanto alle banche: Intesa San Paolo più 5,70%, Monte dei Paschi più 4,20%. Non mi chiedete cosa è cambiato, nulla, si tratta di volatilità e di speculazione. Dicevo, Monte dei Paschi più 4%, Pop Milano più 3,40%, Mediobanca più 2,40%, Anima Holding più 2,40%, Ubibanca più 1,8%. Sono recuperi parziali rispetto ai cali di ieri. Devo dire che oggi, a parte generali, meno 1,34%, di titoli finanziari negativi non ce ne sono. Se vogliamo, la Pop Emilia Romagna cresce poco rispetto ai cali dei giorni scorsi, più 0,70%. E da questo punto di vista anche il Banco Popolare, ieri pesantemente negativo, recupera poco, appena l'1%. Bene oggi anche Mediaset, più 6%, Tenaris più 5,88%, l'euro Eleni più 2,65%. Qui chiaramente il tema bancario non c'entra nulla, c'è un petrolio in recupero a $33.50 al barile, più 4% nel giorno in cui comunque anche un altro colosso petrolifero come Royal Dutch Shell ha annunciato un utile in calo del 44% nel quarto trimestre del 2015 a $1.800 milioni. Come sempre, anche in questo caso il motivo si chiama calo del prezzo del petrolio. L'euro è in rafforzamento, è a quota 1,11,8, 1,12 praticamente, anche dopo le parole di Mario Draghi, che ha fatto capire che la BCE guarda con estrema preoccupazione quello che sta capitando sull'inflazione. E per quello che riguarda, poi ascolteremo i vari interventi di Mario Draghi, però vorrei partire con le stime della Commissione Europea, perché sono anche l'oggetto dei 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Non è solo un problema di numeri o di noiose tabelline. La Commissione Europea ha pubblicato le nuove previsioni economiche e, detto in soldoni, segnala un rallentamento per la ripresa in Europa e una crescita minore del previsto per l'Italia. Sono correzioni tutto sommato piccole, ma indicano comunque una tendenza che i decisori politici non devono sottovalutare. Bruxelles stima che per l'eurozona la crescita sarà dell'1,7% e non dell'1,8% come previsto in un primo tempo. Motivo? Il rallentamento dell'economia mondiale e della Cina, soprattutto il rischio deflazione che non è ancora stato debellato nonostante i bazooka della BCE e i focolai di guerra in Medio Oriente. In questo scenario non facilmente stabilizzabile rimane anche la guerra del petrolio a colpi di ribassi del prezzo del Brent, che sta sconvolgendo gli equilibri interni all'OPEC e i rapporti fra gli stessi paesi arabi. Quanto all'Italia, l'esecutivo comunitario si aspetta che l'economia prenda velocità nel 2016 e nel 2017, grazie anche a un rafforzamento della domanda interna. Bruxelles prevede una crescita dell'1,4% nel 2016 e dell'1,3% nel 2017, mentre in un primo tempo si attendeva un aumento dello 0,1% superiore in entrambi gli anni. La Commissione ha anche corretto il dato di deficit, in peggio, e la stima passa così dal 2,3% al 2,5%. Quanto al debito, stima solo che calerà leggermente. Ciò che deve preoccupare di più è che l'Italia cresce meno degli altri competitor europei e soprattutto è l'unico paese dell'Eurozona per il quale il 2017 è dato in rallentamento rispetto all'anno precedente. Questi numeri, una volta di più, ci dicono che sarà decisivo acquisire il via libera di Bruxelles nella cosiddetta flessibilità nei conti pubblici, altrimenti un'ulteriore rigidità nel bilancio non aiuterebbe certo a ridare vitamine a un'economia così fragile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, sulla borsa, come mi dicono, guardi che non sta guadagnando. Sì, nel frattempo la borsa si muove, così come Parigi ha azzerato ogni guadagno, Francoforte è peggiorata, adesso perde mezzo punto, lo 0,60, Milano è arrivata a guadagnare l'1%, quindi ha ridotto il guadagno. Sono d'accordo con chi scrive che la borsa comunque ha toccato dei minimi da fine 2014, per cui non c'è nulla da festeggiare dal punto di vista borsistico, ma ci mancherebbe, non mi sembra che nessuno stia festeggiando onestamente. Per quello che riguarda il valore del listino, insomma, siamo obiettivamente su livelli molto bassi, tutto, ma questo abbiamo già raccontato, tutto il guadagno del 2015 ce lo siamo mangiati, siamo anche andati indietro rispetto a questo, perché adesso mi faccio dare il dato corretto definitivo, 17.000 punti, sto guardando col grafico assieme a voi, li vedo al 5 dicembre 2013, quindi in realtà siamo andati indietro di almeno 2 anni, sì, diciamo settembre 2013 il FTSE MIB quotava intorno ai 17.900 punti, 9 settembre 17.400 punti, più o meno siamo tra settembre e ottobre del 2013, quindi a questo punto gli anni sono due quelli in cui si è andati indietro. Però poi vi arriviamo, andiamo avanti invece con le altre notizie in breve. Credit Suisse, conti in rosso per 2 miliardi e 900 milioni di euro nel 2015, gli ammortamenti e gli accantonamenti pesano sul bilancio, è la prima perdita per Credit Suisse dal 2008 e conferma il gruppo il taglio di 4.000 posti di lavoro. Va molto male in borsa, è arrivato a perdere oltre il 10%, il titolo si è riportato, Credit Suisse, ai livelli del 1998. E sempre in tema di banche con grossi problemi, e mi riferisco a Deutsche Bank, oggi la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha dedicato una colonna, un commento al vetriolo, al nuovo copresidente John Crane. È crollato in borsa anche ieri il titolo Deutsche Bank. Ha detto, ha parlato male, è un disastro di comunicazione, mette a rischio la più grande banca tedesca. Crane ha fatto luce sulle debolezze della banca dimenticando i punti di forza. Una banca che chiude il 2015 con 33 miliardi e mezzo di ricavi è certamente più forte di quello che lascia pensare. Bene, prendiamo atto che Frankfurt Allgemeine Zeitung, sempre molto duro con le banche italiane, quando gli toccano Deutsche Bank fa una colonnina per ricordare che la banca è più solida del previsto, anche se l'anno scorso ha perso 6 miliardi e 700 milioni di euro. Voi immaginate se l'avessero fatto i nostri giornali, subito accusati di spalleggiare la banca forte. No, lo dico perché è sempre importante vedere quello che fanno gli altri anche. Brutto il dato sugli ordinativi industriali negli Stati Uniti invece, meno 2,9% a dicembre, gli analisti si attendevano un meno 2,6%, e devo dire che la settimana scorsa è arrivata anche un'indicazione della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, che se dovessero essere confermate le previsioni di un rallentamento dell'economia, potrebbe ripensare anche la politica sui tassi, lasciandoli molto accomodanti, cioè non toccandoli o toccandoli marginalmente nel 2016. Chi li ha lasciati fermi? Oggi la Banca d'Inghilterra, che ha lasciato fermo il tasso di riferimento allo 0,5%. Spostiamoci in Europa, il paese è paralizzato dallo sciopero generale, parliamo della Grecia chiaramente, i sindacati sono contro la riforma delle pensioni, hanno marciato sul Parlamento, molte le categorie che protestano per l'aumento dei contributi ipotizzato dal governo, che dicono i sindacati in Grecia, unito agli aumenti delle tasse, finirà per prelevare il 75%, forse l'80% delle categorie coinvolte, lavoratori dipendenti, liberi professionisti, agricoltori e pensionati, praticamente non scappa nessuno, trasporti pubblici urbani e extraurbani fermi e in piazza scendono anche gli avvocati, i notai, i camionisti, i benzinai, i medici e i farmacisti, sciopero anche per gli addetti al trasporto marittimo. Molti mi chiedono dei motivi, poi ne parleremo. Comunque la Commissione Europea dice sostanzialmente che la crescita è a rischio perché complessivamente ci sono nuove sfide da fattori esterni, in primo luogo la crescita più lenta in Cina e un'incertezza anche geopolitica. I rischi per l'economia si stanno facendo più pronunciati, ecco perché io invito alla prudenza. E poi sull'Italia, ma ne parleremo, ascolteremo anche Moscovici, il deficit è visto a rialzo nel 2016 al 2,5%, a novembre al 2,3%. Allora, anche qui, è un deficit più alto di quello che l'Europa ci chiede perché vuole che arriviamo al deficit pari a zero. È un deficit comunque sotto il 3%, che è il limite che posta l'Unione Europea, un limite che per esempio la Francia, che pure non ha tutto il debito che abbiamo noi, non riesce a mantenere. Per cui insomma il bicchiere può essere visto come mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè il 2,5 è sicuramente un deficit se venisse confermato nel 2016, non quello auspicato dall'Unione Europea, ma insomma sotto il 3%, questo lo possiamo dire. Nel frattempo, venendo all'Italia, visto che parlavamo d'Italia, Moscovici ha detto anche che all'Italia serve serenità e capacità di ascolto, lo spirito di dialogo e compromesso prevalga sullo scontro, questo sempre in mezzo alle polemiche tra Roma e Bruxelles. Dicevo, per quello che riguarda l'Italia, oggi la conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato in tempo record il riparto del Fondo Sanitario 2016 che vale 111 miliardi di euro, mentre è slittato il decreto per il pacchetto di misure per il settore bancario, compresa la riforma delle BCC e anche quello che serve a rendere operativo l'accordo con Bruxelles per quello che riguarda la creazione di bad bank per le singole banche, dove fa confluire e cartolarizzare i crediti inesigibili. E il ministro Padoan su questo ha detto l'accordo raggiunto con Bruxelles dà garanzia e porterà a risultati importanti non immediatamente ma nel medio termine. Le sofferenze bancarie nette oggi sono pari a 88 miliardi e non a 201, a quella esposizione corrisponde un livello di garanzia superiore a livello europeo. E poi serve una fase transitoria sul bail-in introdotto per aumentare la stabilità, ma registriamo che sta creando un'instabilità. Poi parleremo anche di quanto sta emergendo invece nella vicenda Banca Etruria, perché la cosa si sta complicando, nel senso che un mese prima del decreto salvabanche numerosi conti correnti di Banca Etruria sono stati svuotati. Ora uno può immaginare tutto, però siccome il decreto è arrivato, era atteso che venisse fatto un decreto entro dicembre, però insomma che un mese prima del decreto vengono svuotati alcuni conti correnti della banca, e lo riferisce il commissario liquidatore Giuseppe Santoni. Il sospetto è che alcuni clienti privilegiati della Popolare Etruria siano stati avvisati per tempo dei rischi. In particolare, nei giorni precedenti il decreto si registrano flussi in uscita per 228 milioni di euro. Dobbiamo pensare male per forza, non può essere una coincidenza con il modo in cui era gestita quella banca. Dalla relazione di Santoni emerge anche che la banca ha pagato consulenze per oltre 17 milioni di euro nel 2013-2014, in molti casi incarichi inutili e autorizzati con delibere irregolari. Poi ne parleremo appunto ricordando anche il tema delle banche, anche se con Patuelli vorrei parlare complessivamente di come si sono mosse le banche italiane. Adesso però Mario Draghi, così ci portiamo al tema bancario, le sue dichiarazioni e questa preoccupazione molto segnalata, molto sottolineata per l'andamento dell'inflazione. 349-238-6666 per i vostri sms, per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora partiamo dal così piccolo giallo, che cosa intendesse dire. Allora ascoltiamo l'originale di Draghi e poi vediamo, perché l'agenzia ha iniziato a battere, forze dell'economia globale cospirano per tenere giù l'inflazione, ma in inglese si può tradurre anche con concorrono per tenere giù l'inflazione. Sentiamo l'originale e poi anche il resto. There are forces in the global economy today that are conspiring to hold inflation down. Ripeto, non è un dettaglio, perché insomma cospirare è una cosa, concorrere un'altra. E allora però sentiamo anche la frase complessiva di Draghi. There are forces in the global economy today. Oggi ci sono forze nell'economia globale che concorrono a tenere bassa l'inflazione. Queste forze potrebbero far sì che l'inflazione torni più lentamente verso il nostro obiettivo. Ma non vi è alcuna ragione per cui queste forze dovrebbero portare a un tasso di inflazione più basso, in modo permanente. Ciò che conta è che le banche centrali agiscano all'interno dei loro mandati e assolvano i loro compiti. Nella zona euro, questa cospirazione potrebbe creare diversi problemi rispetto a quanto faccia in altre aree, ma questi problemi possono essere mitigati. Queste sfide non giustificano il non agire. Allora, nel frattempo Milano sta chiudendo, qualcuno mi scrive perché la borsa è peggiore. No, guardi che oggi non è la borsa peggiore, adesso ha di nuovo recuperato un po' più 1,30%. Ripeto, siamo su livelli che ci hanno riportato a settembre-ottobre del 2013, però Parigi oggi fa lo 0,20% di rialzo, Francoforte perde lo 0,40%. Adesso arriveremo a commentare anche i titoli. Vorrei far ascoltare però un altro passaggio dell'intervento di Mario Draghi, perché in un discorso a Francoforte, perché è la parte in cui ha detto: noi non ci arrenderemo, meglio agire prima che agire troppo tardi, meglio agire troppo presto che troppo tardi. E poi ha aggiunto che da un lato potranno rivedere la politica monetaria, quindi tassi di interesse, se continueranno ad aumentare i rischi di una maggiore incertezza sulle prospettive di crescita. E poi ha detto che manca un accordo sul terzo pilastro dell'unione bancaria, la garanzia sui depositi, che è un elemento fondamentale per una vera moneta unica. Per questo, ha aggiunto Draghi, bisogna creare uno schema di garanzia europea dei depositi, e la proposta della Commissione è benvenuta. La proposta definisce l'obiettivo ambizioso di creare un vero sistema europeo di tutela dei correntisti, e offre una serie di garanzie contro l'azzardo morale, in modo che la condivisione dei rischi non diventi una distribuzione dei rischi. E poi ha ribadito, appunto, noi non ci arrenderemo davanti alla bassa inflazione. For that reason, in a context of prolonged low inflation, monetary policy cannot be relaxed about a succession of supply shocks. In un contesto di prolungata e bassa inflazione, la politica monetaria non può essere lenta rispetto a una serie di shock. Attendere eccessivamente porta con sé rischi. Primo fra tutti, un distacco dalle aspettative di inflazione, che porterebbe a un'inflazione debole. E se ciò dovesse accadere, ci sarebbe bisogno di una politica monetaria molto più accomodante per invertire tale tendenza. Considerando questa prospettiva, i rischi di agire troppo tardi superano i rischi di agire troppo presto. In sintesi, anche di fronte a shock globali prolungati, è ancora la politica monetaria che determina la stabilità dei prezzi a medio termine. Se non ci arrenderemo alla bassa inflazione, e di certo non lo faremo, in un contesto di stabilità si tornerà a livelli coerenti con il nostro obiettivo. D'altra parte, se capitolassimo alle inesorabili forze disinflazionistiche, o se invocassimo lunghi periodi di transizione per far calare l'inflazione, perpetueremmo solo la disinflazione. We will in fact only perpetuate disinflation. Allora, anche qui vedo molti messaggi sulla deflazione, i prezzi fermi. Bisogna capirsi, da un punto di vista macroeconomico non è una bella notizia per tre motivi: perché segnala un'economia dei consumi che non ripartono, perché quando i prezzi sono attesi in calo si rimandano le scelte d'acquisto, uno aspetta, diciamo, qualche mese immaginando che i prezzi potranno calare, e poi a livello ancora più macroeconomico perché prezzi in calo o assenza di inflazione non sono una buona notizia per i paesi e per tutti quelli che hanno un debito. L'abbiamo spiegato più volte: se tu hai un debito di 1000 euro o 1 milione di euro, se avessi un'inflazione al 5%, il valore reale dopo un anno è il 5% più basso. L'assenza di inflazione, o peggio la deflazione, aumenta il valore reale del debito. Certo è però che, questo non sfugge, che per tutte le categorie di reddito fisso, quindi il lavoro dipendente in primo luogo, privato, pubblico che sia, l'assenza di inflazione determina un leggero recupero del potere d'acquisto. Poi sappiamo che non piace, c'è una preoccupazione sulla deflazione anche e soprattutto in Germania, i rinnovi contrattuali, ci sono grandi gruppi industriali che hanno rinnovi contrattuali imponenti, e un rinnovo contrattuale non puoi spesso con i sindacati tedeschi, col peso che hanno i sindacati in Germania, fare un rinnovo contrattuale senza un aumento in qualche modo, anche se l'inflazione non esiste. Però diciamo è una buona notizia per il cosiddetto ceto medio impoverito in questi anni di crisi e prima ancora dal passaggio lira-euro. Sì, è una buona notizia per queste persone, perché non dico che tu vada a recuperare il potere d'acquisto, ma sicuramente non lo vai a perdere. E quindi in alcuni casi lo vai anche a recuperare, perché ci sono interi settori, come sappiamo, che sono in vera deflazione. Va bene, dopo il merito della pubblicità, invece, e prima di arrivare al commento di borsa, parliamo con il presidente dell'ABI Patuelli. Vorrei capire, insomma, perché non è arrivato un avviso prima di quanto stesse capitando, perché anche sul bail-in adesso tutti chiedono più tempo. e diciamo perché non si fossero messe in piedi le regole di trasparenza come, come ha chiesto Sole 24 Ore nel vademecum, insomma, delle regole di trasparenza chiare sui prodotti comprensibili a tutte. Dopo il meteo. Focus Economia. Allora, 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per quello che riguarda Banca Etruria non sappiamo altro, è inutile che me lo dico, che mi venga chiesto, perché la relazione del commissario liquidatore Giuseppe Santoni, acquisita dai magistrati, fa notare come sono usciti nei giorni prima del crack 228 milioni di euro. E poi la il famoso tema delle consulenze dei 17 milioni. Tra l'altro, sul PM, o meglio procuratore Roberto Rossi, si è scoperto che sono stati 10 procedimenti aperti dalla procura di Arezzo a partire dal 2008, che hanno visto l'ex vicepresidente di Banca Etruria, per Luigi Boschi, papà del ministro, nel ruolo di indagato o coindagato, di cui 4 hanno avuto come titolare l'attuale procuratore Roberto Rossi. Ne resta aperto solo uno, su cui c'è una richiesta di archiviazione che risale al 2014, al dicembre 2014, quando Rossi era già alla guida della procura toscana. Il CSM poi dovrà decidere se c'è incompatibilità tra il ruolo del procuratore Rossi e un incarico di consulenza per il governo, che arrivò già con il governo Letta, però obiettivamente, diciamo, ha archiviato tutto in quel periodo, ma evidentemente non ha notato nulla. Non sta a me, non conosco gli atti, non conosco che atti avesse in mano il procuratore Roberto Rossi. Faccio notare che, insomma, 10 procedimenti aperti, mi sembra che nulla abbiano portato. Ma restiamo sul tema delle banche, anche di quello che dice oggi il ministro Padoan, che sottolinea: attenzione, la reazione dei mercati non è commisurata alla realtà del sistema bancario italiano, è solido. Il decreto però è slittato, quello sulle bad bank, è slittato nel Consiglio dei Ministri la prossima settimana, così come il decreto sulle compresa della riforma delle BCC. E ha detto Padoan, dalla garanzia, dall'accordo raggiunto con Bruxelles arriveranno risultati importanti, soprattutto nel medio termine. Allora, Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, dell'Associazione delle Banche Italiane, buonasera e grazie buonasera per averci raggiunto. A tutti loro. Allora, Patuelli, se non voglio iniziare una polemica, però mettiamola così. No, aspetta. Lasciamo stare le quattro banche un secondo. Vorrei parlare del decreto, cioè dell'accordo raggiunto con Bruxelles. Allora, lei si è data una spiegazione del perché in queste settimane siamo tornati, soprattutto sugli indici dei titoli bancari, ai livelli del 2013, e soprattutto è d'accordo con il governatore della Banca d'Italia Visco, che ha detto che bisogna rivedere o pensare meglio il tempo di applicazione del bail-in? Cominciamo dalla seconda. Sono assolutamente d'accordo, perché ho segnalato da mesi due problematiche. Una, la difficile compatibilità di questa norma con l'articolo 47 della sempre vigente Costituzione della Repubblica, che tutela il risparmio. Mm. La Repubblica tutela il risparmio, e di conseguenza è un problema questo costituzionale non piccolo. Il secondo, perché la norma europea recepita in Italia ha portato degli effetti retroattivi. Le norme devono essere generali, astratte e pro futuro. Non possono e non debbono avere effetti retroattivi, ovvero sia effetti per coloro che hanno posto in essere atti giuridici quando non esisteva la norma, e quindi sono d'accordo col governatore. Però posso dire una cosa, l'abbiamo detto ieri al governatore, la dico anche a lei. Ma perché vi svegliate solo adesso? Le chiedo scusa, è un termine che veniva usato nel ventennio, per essere preciso. Non è che non si può usare il voi. Il voi è indeterminato e offensivo. ABI e Banca d'Italia. Allora, lei mi dice: fatto i comunicati. Patuelli, mi faccia fare la domanda e poi le lascio rispondere. La sensazione che abbiamo noi, che conduciamo in maniera magari imprecisa e approssimativa, un programma di economia e finanza tutti i giorni, leggiamo i giornali, è che fino a dicembre, io non dico che l'ABI non abbia fatto dei comunicati e delle note, ma il tema del bail-in non interessava praticamente, cioè no, posizioni dure e forti, sia della Banca d'Italia che ne ha i mezzi, gli strumenti e l'autorità, ma anche voi non scherzate, non ne abbiamo viste, prego. Il procedimento legislativo, quale è stato? È stato che c'è stata una norma europea nel 2014. Io ho parlato il 28 di ottobre alla giornata del risparmio, che è l'occasione più solenne con il ministro e il governatore, ok? E di conseguenza lì posi la questione della costituzionalità ed è finito su tutti i giornali. A quel punto il processo legislativo italiano di recepimento era che diverse commissioni parlamentari esprimevano i loro pareri e il governo prendeva le determinazioni, ma nelle commissioni parlamentari né soprattutto nella riunione del governo noi non ci potevamo essere a verificare che le commissioni esprimessero delle riserve. Queste riserve il Parlamento non le ha fatte prima, per essere precisi. Quindi bisogna che queste domande lei le ponga a chi approva le regole nella Repubblica Italiana. Quindi, avevamo già detto il 28 di ottobre che c'erano delle riserve di costituzionalità. Allora, Patuelli, quindi le dice... Noi abbiamo fatto notare che c'erano delle riserve di costituzionalità. Se poi la politica non le fa proprie, la colpa non è nostra. Allora, dopo... andata a chiedere ai parlamentari delle commissioni. Ho capito. Lì ci sono i pareri delle commissioni parlamentari. Vabbè. Una per una. Nei ma è importante questo perché, voglio dire, l'ABI, cioè le banche che lei rappresenta, dicono... Noi come associazione delle banche abbiamo fatto notare che c'era un problema di costituzionalità. Banca d'Italia adesso dice che ha sempre fatto notare che sul bail-in l'applicazione dei tempi, diciamo, il periodo transitorio era fondamentale. Vamo. Dopo il traffico, ho capito che voi dite, è la politica che non ha saputo gestire questo processo e nel caso specifico anche il governo, perché a questo punto se un governo arriva a fine novembre a fare un decreto su quattro banche e non capendo che cosa succede e che cosa può in generale nell'opinione pubblica un decreto del genere dove porti le garanzie al 17% e dove a un mese dall'avvio del bail-in... voglio dire, allora c'è un problema proprio di comunicazione. Se voi dite, gliel'abbiamo spiegato in tutti i modi al governo che bisognava prendere un po' più di tempo nell'attuazione e alla politica, non solo al governo, anche al Parlamento. Visco, la Banca d'Italia sostiene lo stesso, allora qui abbiamo capito che il problema è della politica che non ha capito. Dopodiché, e dopo il minuto di pausa che ho per il traffico, io vorrei sapere. Personalmente non ricordo tutte queste posizioni nette, dure, interviste di Visco, però. Me ne sarò dimenticate io. Diciamo che voi le avete scritte in tutti i livelli e a tutti i livelli consoni. Secondo me c'è stato un errore comunque, non dico di comunicazione, di gestione dell'intera cosa, perché non si spiega se no la paura, non voglio usare il termine panico, che sta prendendo molti correntisti e quello che sta succedendo sulle banche italiane. Allora vorrei sapere che cosa ne pensa dopo il traffico il presidente dell'ABI su questa domanda. Non è che il mondo delle banche che lei rappresenta è da un lato e la politica dall'altro in questi anni, cioè dal 2011 in poi, non abbiano avuto una convergenza di interessi nel dire che le banche stavano bene, la politica perché aveva il problema del debito, dell'attacco allo spread, di risistemare un paese, Monti, Letta, sappiamo, e quindi a loro faceva comodo sentirsi dire dalle banche che le banche italiane erano diverse, stavano bene e non avevano problemi. Alle banche italiane faceva comodo dire che stavamo bene, non avevamo i prodotti tossici, perché così consigli di amministrazione, presidenti, vicepresidenti e tutto quanto la baracca si reggeva su questa vulgata. Poi abbiamo scoperto che avevamo alcune popolari fallimentari, altre popolari non quotate, penso alla Vento Banca, alla Vicenza, dove ne vedremo delle belle, e un problema di sofferenza che sta indebolendo l'intero settore. Che cosa non ha funzionato o è solo una mia idea che vi fosse un'eterogenesi dei fini per essere molto alti? La risposta dopo il traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta il nostro ospite, presidente dell'ABI, Antonio Patuelli. Patuelli, la domanda è chiara, anche perché la direttiva della Commissione Europea sul bail-in, data 15 maggio 2014, no, dopo che già l'avevano usata in Spagna, però voglio capire, non voglio isolare la domanda, cioè non c'è stato un'eterogenesi dei fini in cui conveniva il mondo bancario non dire come stavano le cose e conveniva la politica credere che le banche di un paese che ha perso il 20% della produzione industriale potessero non avere problemi di sofferenze? Posso parlare? Ah, finito. Perché fino ad ora sono stato quasi zitto. Allora, premesso che io sono diventato presidente dell'ABI nel 2013, dopo un evento traumatico che si è verificato al Monte dei Paschi di Siena, certo. E quindi era evidentissima che c'erano delle problematiche bancarie e tutto non andava bene. Premesso questo, io ho combattuto i primi due anni della mia presidenza contro un vento formidabile di ipotesi fantasiose che l'Italia fosse il paese in cui venivano fatti i regali alle banche, mentre altrove invece avvenisse il contrario. Era un racconto esattamente l'opposto della verità. Per due anni ho spiegato questo e solamente in questi ultimi sei mesi la verità appare, ovvero sia che in Germania lo Stato aveva regalato 247 miliardi di euro alle banche e in Italia invece non un centesimo a fondo perduto. Mi sono sgolato per due anni. E questo che cosa significava? Che c'era una valutazione di larga parte del mondo politico, di larga parte del mondo dell'informazione, che faceva la caccia a ogni provvedimento che potesse non essere negativo sulle banche. Andavano bene solo i provvedimenti che aumentavano le tasse all'epoca. E che la crisi del Monte dei Paschi ci fosse già stata, era tanto evidente che il Monte dei Paschi aveva cambiato tutti i suoi vertici e che l'ex presidente Mussari si era dimesso anche dal presidente dell'ABI, avevano nominato a sorpresa il sottoscritto. Quindi il racconto che tutto andava bene non risponde alla storia. Si cercava all'epoca, come ABI 2013-2014, di ottenere uguali posizioni concorrenziali rispetto all'Europa e tutte le volte che ottenevamo e abbiamo ottenuto dei risultati abbiamo avuto delle violente polemiche contrarie in nome del fatto che in Italia venivano fatti regali alle banche. Questa è la storia della vicenda. Ho capito la sua posizione, allora vediamo se riesco a mettere in un altro modo. Allora, voi avrete fatto anche tutti i passaggi giusti a livello governativo e parlamentare nel segnalare bail-in, nel chiedere e nello spiegare bene. Monte dei Paschi a suo tempo fu accolto come uno scandalo, nasceva dall'antoventa, non come il primo campanello d'allarme, glielo dico per inciso, che il sistema bancario italiano avesse dei problemi con le sofferenze date e concesse. Lì si parlava solo della banda di Mussari e compagnia, no? Non si dice, e Alexandria, Santorini e tutto quanto, ma non si diceva questo è il primo campanello d'allarme. Detto questo, siccome io apprezzo anche la sua così volontà di difendere le idee, allora qualcosa però in questo momento non sta funzionando, possiamo dire questo, cioè se noi abbiamo, perché un'opinione pubblica che teme che le banche non stiano raccontando il vero da un lato e dall'altro dei prospetti e una regolamentazione che permette alle quattro famose banche a partire dall'Etruria di collocare obbligazioni strutturate rischiose e non mettere in evidenza i rischi, c'è qualcosa che non sta funzionando. Allora io dico, al di là del dire noi abbiamo detto, abbiamo messo in guardia, abbiamo avvisato, non ci avete sentito, non volevate sentire, ora come ora non è il caso di prendere un'iniziativa forte su questo tema che non sia, che non finisca con patti chiari, che fu diciamo un'operazione di marketing? Legge il Sole 24 Ore. Beh certo, giusto? Sì, sono obbligato. Diciamo, per legge. E io invece lo faccio per libera scelta di soddisfazione. Ecco. Bene. E di conseguenza lei avrà visto la mia lettera di il 2 febbraio 2016, trasparenza semplice diventa l'obiettivo in banca. Abbiamo anche, ce l'ho qua. Ufficializzato un percorso che era iniziato da tempo perché le regole non le fa l'associazione bancaria, le regole le fanno le istituzioni europee e nazionali. A questo punto abbiamo risposto a un'idea del direttore napoletano del Sole 24 Ore dicendo che non solo siamo d'accordo con la sua idea, ma che ne stiamo parlando con la Consob, che è quella che decide poi le regole, e in più che sollecitiamo una trasparenza semplice al punto che chiediamo alla Consob che disponga che i moduli sui diversi prodotti bancari e finanziari siano anche di colore diverso, in modo che non ci sia un equivoco. Una obbligazione subordinata deve avere un modulo di colore diverso di un'obbligazione ordinaria, di un certificato di deposito, di un prodotto assicurativo, cioè, o di un titolo azionario. Intuitivo. In modo che nessuno possa avere un equivoco. È un titolo azionario, deve esserci un colore, un'obbligazione di un'altra, e via di questo genere. Noi siamo interessati a che non ci siano equivoci, perché i salvataggi decisi dal governo per le quattro banche sono stati innanzitutto pagati dalle altre banche italiane per un ammontare totale di 2 miliardi e 450 milioni a carico di azionisti che sono 5 milioni di azionisti, che non li troveranno nel reddito delle loro banche e nemmeno nel capitale delle loro banche. E poi sono pagati anche dagli obbligazionisti. Senta, mi dica, guardi, io ho un minuto scarso, volevo due cose. La prima, se mi dà in un flash, prima di sfidarmi a duello, Patuelli, perché no, io non sfido a duello, no, perché contro la legge. Senti. Ah, solo per questo, va bene. Solo per questo. Però prima di sfidarmi a duello, mi dice se ritiene che il mondo bancario, complessivamente dato che lei rappresenta, abbia fatto un errore in questi anni. In secondo luogo, lei è tranquillo sul il fondo di garanzia sui depositi, quello che viene chiamato in caso dal bail-in nel caso una banca fallisca, per garantire i depositi fino a 100.000 euro? Uno e due. Sul secondo, certissimo, perché è una norma internazionale, europea e italiana, e quindi non si scappa. Okay. Per quello che riguarda il mondo, lei l'ha ben definito, le banche sono tutte diverse fra di loro, tutte in concorrenza fra di loro, e di conseguenza io rifiuto sempre il termine sistema che le unifica. Lei ha detto bene, mondo, le banche sono diverse, quindi non si può dare una valutazione uniforme, superficiale e grossolana. Va bene, quindi no, insomma, non c'è un'autocritica che complessivamente il mondo bancario possa fare, perché sono vari soggetti, ho capito benissimo, sono vari soggetti diversi, va bene, ho capito tutto, e in bocca al lupo, adesso vediamo se vi ascolteranno di più, se la sua lettera era chiara il 2 febbraio scorso al Sole 24 Ore, grazie al Presidente dell'ABI anche per non avermi sfidato a duello, e quindi grazie a Antonio Patuelli. Oh, dai, non mi fate rispondere ai messaggi, ragazzi. Uno ha il diritto di mantenere le sue posizioni, le sue linee. Lo faceva anche l'ex presidente dell'Unione Petrolifera Italiana quando parlavamo di prezzi della benzina. Si batteva come un leone, e lasciategli battersi come un leone, mica sennò che li invito a fare perché mi diano solo ragione. Non funziona così. Comunque, andiamo al GR24, poi ascoltiamo Padoan e poi anche il tema di Draghi e della Commissione Europea. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione, qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, però adesso vedo le critiche a Patuelli, però voglio dire, giustamente il presidente dell'ABI difende la sua linea, è anche vero che l'ABI si era espressa in tal senso. Vabbè, resta sullo sfondo, vedremo come andranno le cose, abbiate anche un po' di fiducia, però non si può chiedere al presidente dell'ABI di non fare il presidente dell'ABI, mettiamola così. Veniamo alla giornata di borsa di oggi, più 1,20% Milano, invariata Parigi, Francoforte meno 0,44%, Londra più 1%, Dow Jones più 0,35%, in recupero alcuni bancari, Intesa San Paolo più 5,80%, in recupero parziale, ci mancherebbe, l'indice a 17.626 punti, è tornato sui livelli del 2013, del settembre-ottobre 2013, dicevo Intesa San Paolo più 5,80%, Monte dei Paschi più 4,40%, Pop Milano più 4%, Mediobanca più 2,20%, Ubibanca più 2%, Banco Popolare più 1,5%, Mediolanum più 1,50%, Unicredit più 0,80%, Pop Emilia Romagna più 0,40%, recuperi in molti casi, scusatemi, molto molto parziali. Poi bene media 7 più 7,60, il petrolio in rialzo spinge Tenaris più 6,10, anche Eni più 2,25%, male Campari meno 4,35%, Luxottica meno 2, Finmeccanica meno 1,80%, Saipem meno 1,60%, Telecom meno 1,40%, Fiat Chrysler meno 1,20%, Generali meno 1,1%. Dottor Vincenzo Longo, strategist di IG Market Italia, buonasera. Buonasera a tutti. Noi ogni tanto invitiamo gli operatori, come abbiamo fatto anche ieri, sui mercati dei capitali e in borsa per commentare la giornata. Possiamo partire da Saipem, perché Saipem anche oggi, insomma, il titolo, insomma, vedo molti ascoltatori preoccupati, mettiamola così, sull'andamento dopo l'aumento di capitale. Sì, esattamente. Durante queste fasi di aumento di capitale la volatilità la fa un po' da padrone, se poi si aggiunge che stiamo attraversando un momento delicato sui mercati, questo spiega, diciamo, il tracollo che hanno visto i diritti passare di mano dai 4 euro e oltre in fase di apertura di aumento di capitale a 52 centesimi oggi, quindi le tensioni sono tante, però sono tipiche, accompagnano spesso questi aumenti di capitali, soprattutto quelli come quelli di Saipem, che sono fortemente dilutivi, quindi è anche normale. Allora, per quello che riguarda la chiusura delle borse, l'ho detta, più 1,23%, forse ho dimenticato Milano, più 1,23% Milano, rispondo agli ascoltatori. Invece Campari meno 4,35% da un lato, e Mediaset sul fronte opposto, miglior titolo tra quelle maggiori capitalizzazioni, più 7,60%. Ma dunque, diciamo che su Campari le vendite di oggi sono state probabilmente dettate dal fatto che il titolo aveva retto bene nel corso delle ultime settimane, ha avuto una performance, diciamo, tra le migliori rispetto a tutti gli altri titoli del FTSE MIB, quindi oggi c'è stata una fase di scarico abbastanza importante. Per quanto riguarda Mediaset invece, la notizia degli abbonati nel settore premium che superano i 2 milioni nel corso, hanno superato i 2 milioni nel corso del 2015, sembra essere stato il maggior catalizzatore di questo rialzo. Il titolo anche in questo caso veniva da una bruttissima serie negativa, così come altri tanti titoli del listino principale, e ne ha approfittato per recuperare terreno. Vorrei precisare una cosa però: molti titoli che oggi hanno dato seguito ad un rimbalzo importante lo hanno fatto per effetto di ricoperture, quindi probabilmente essendo stati venduti in maniera massiccia nelle scorse sedute. Ma per ricoperture intende anche quell'elemento quasi automatico per cui viene impostato un ordine di acquisto quando il titolo scende sotto un certo livello? Esattamente, anche e soprattutto coloro che sono short a ribasso su molti titoli, probabilmente per cautelarsi vanno a comprare lo stesso titolo per proteggersi contro un eventuale rialzo. E quindi questo è per effetto di queste ricoperture abbiamo dato seguito a un rimbalzo così poderoso. E la cosa che ci stupisce è che ha caratterizzato dei singoli titoli, proprio quelli che hanno perso tantissimo terreno. Non c'è stato un rialzo diffuso in tutto l'indice, molti titoli anzi hanno chiuso in forte calo, come Campari, ma altri ancora come Fiat Chrysler per esempio. Senta, lei per inciso ha capito se Draghi intendesse veramente complotto, cospirazione globale o intendesse concorso di fattori? Perché gli ascoltatori dicono che in effetti in inglese l'inglese di Draghi oggi non l'abbiamo elogiato perché ci ha lasciato con un dubbio. Non vale elogiare un inglese che ci lascia con un dubbio. Se quella frase conspiracy intendesse dire un concorso di fattori che tiene l'inflazione bassa o forze che cospirano per tenere l'inflazione bassa, ve lo siete chiariti voi? Ma no, diciamo che più la seconda, quindi il messaggio più ufficiale da parte di un governatore centrale è quello di una serie di fattori che vanno a tenere il petrolio, che vanno a tenere l'inflazione così bassa, perché il fattore della credibilità è centrale per un banchiere, quindi se fosse cospirazione in senso stretto, come lo intendiamo noi, sarebbe abbastanza grave, insomma. Allora, torniamo invece ai titoli. I petroliferi, dicevo, in recupero sul prezzo del petrolio, Eni e Tenaris, soprattutto i bancari. Domani ci sono i conti di Banca Intesa, Intesa San Paolo più 5,88 oggi. Oggi il mercato, ripeto, non ha recuperato, sarebbe sbagliato dirlo, ma ha molto distinto, mi è sembrato, sui titoli bancari, quanto rialzi. Sì, esatto. Il caso di specie è quello di Intesa San Paolo, che in vista dei conti ha registrato un rialzo superiore ai 5 punti percentuali. Ora, se facciamo un passettino indietro, la scorsa settimana abbiamo visto una FCA che nel corso in vista dei conti aveva dato seguito a un buon recupero, la stessa cosa dicasi per Ferrari, un buono spunto prima dei conti, poi nel giorno dei conti, all'annuncio dei conti straordinari in entrambi i casi, comunque i titoli hanno dato seguito a forti vendite, quindi attenzione a questi acquisti su Intesa San Paolo, perché probabilmente domani, quando usciranno i conti, che dovrebbero essere straordinari, ricalcando le parole di Messina, probabilmente potremo dare seguito poi a un forte calo, a un sell on news, quindi a una vendita sulla notizia. Quindi attenzione, sarei un po' cauto sul titolo, perché potrebbe essere poi un poco di paglia e domani si torna a scendere, quindi stare un po' più cauto. Migliori e peggiori della giornata: Prelios meno 40%, Landi Renzo meno 19%, Zucchi meno 17%, KF meno 14%, e invece ING Group più 8,70%, Media 7 più 7,5%, abbiamo detto TAS più 6,70%, Workspace più 11%, bene anche il Crédit Agricole più 5,30%. Grazie e buon lavoro al nostro ospite, sia Vincenzo Longo, strategist di IG Market Italia. Traffico, e poi parliamo del rapporto della Commissione Europea sulle stime di crescita riviste a ribasso. Non tantissimo, un po' rivista a ribasso anche per l'Italia. Focus Economia. Je lis la presse italienne, il semble qu'il y ait... Leggo la stampa italiana. E mi sembra che ultimamente ci sia una certa confusione sulla posizione della Commissione circa la flessibilità per l'Italia. Ci sono anche speculazioni totalmente contraddittorie sulla mia posizione al riguardo. Alcuni mi vedono addirittura schizofrenico, malattia di cui non mi pare di soffrire. La posizione della Commissione è chiara e la mia è nota. Quali sono le richieste dell'Italia? L'Italia ha ricevuto l'anno scorso 0,4 punti di flessibilità per riforme importanti, flessibilità supplementare che è conforme al patto. L'Italia è il solo paese dell'Unione Europea a beneficiare di questa clausola per le riforme strutturali. L'Italia a ottobre ha chiesto flessibilità ulteriore, anch'essa prevista dalle regole, per riforme e investimenti. L'Italia ha inoltre chiesto di beneficiare di flessibilità addizionale per le spese legate alla crisi dei rifugiati. Qualche settimana fa ha chiesto un ulteriore margine per spese antiterrorismo e cultura. Qual è la risposta della Commissione? E anche la mia? Esiste un calendario preciso per decidere su queste richieste e le decisioni verranno prese a maggio. Sono sempre in contatto con il ministro Piercarlo Padoan per fare il punto sulla questione. Il dialogo con le autorità italiane è aperto e di qualità. Risponderemo a maggio con spirito di sostegno alle riforme, ma senza contravvenire al patto di stabilità e crescita. Tutto chiaro? Dice Moscovici, che dovrebbe essere l'alleato dell'Italia, nel senso che è francese, socialista. Però in questo caso parla come commissario europeo, dovrebbe essere. Questo nel giorno in cui l'Unione Europea ha ridotto la crescita nell'area euro, per quello che riguarda l'Italia leggermente a ribasso quest'anno e l'anno scorso e l'anno prossimo, cioè da 0,9 a 0,8 l'anno scorso, da 1,5 a 1,4 quest'anno e dall'1,4 all'1,3 l'anno prossimo. Il debito italiano cala poco, dice l'Unione Europea, peggiora il saldo strutturale, il deficit quest'anno sarà il 2,5%. Poco fa ha parlato anche il ministro Padoan, di nuovo ha detto che le clausole di salvaguardia, quelle che scatterebbero nel 2017 se non trovassimo 15 miliardi, porterebbero in automatico l'aumento di IVA e accise, verranno evitate con i risparmi, con le misure di risparmio, immagino soprattutto tagli della spesa, quindi spending review. E poi abbiamo visto anche altre dichiarazioni di Juncker, che dice insomma Renzi si era andato troppo in là, io mi sono trovato costretto a rispondere alle accuse. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24, Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Allora Adriana, al di là delle previsioni, se non mi sembrano devastanti come notizie, sì, l'Europa crescerà dell'1,7 invece che dell'1,8, siamo a gennaio, vediamo un po', ho trovato più preoccupato oggi Mario Draghi che non la Commissione Europea. Moscovici ha fatto capire chiaramente, l'ho detto anche in italiano, che si parlerà a maggio della flessibilità. Oggi abbiamo avuto anche i dati su quanto partecipa l'Italia ai 3 miliardi per la Turchia, il grosso lo fa la Germania, l'Italia partecipa con la Germania fa 427 milioni, la Gran Bretagna 327, Francia 300 milioni, noi 224, quindi la quarta più alta. Comunque Moscovici adesso basta, ne parliamo a maggio di eventuale nuova flessibilità, voi l'avete già avuta? Sì, beh, non è una notizia che si decidesse a maggio, era noto fino al principio. La risposta è arrivata proprio perché ieri Padoan ha sollecitato un'accelerazione della decisione. Dopodiché sulla questione della flessibilità lui ha detto aspettate e poi decideremo. Ora però i dati che sono arrivati non sono diciamo molto incoraggianti, nel senso che il peggioramento del deficit strutturale, che è quello che poi diciamo segna la direzione del calo del debito e del raggiungimento del pareggio di bilancio, è previsto un peggioramento dall'1 all'1,7%, quindi è una quota piuttosto rilevante. Tanto è vero che poi, diciamo, nei contatti che sono seguiti alla conferenza stampa, insomma, l'impressione che si ha è che in maggio sulla questione debito ci potrebbe essere un rapporto non esattamente favorevole, diciamo, all'Italia. Questo molto dipenderà naturalmente dai negoziati che ci saranno col governo, dai dati definitivi del 2015, da tante cose, però ecco, non al di là della forma, che non era in nessun modo drammatica, però non sarei così tranquilla sulla futura evoluzione, insomma, delle decisioni della Commissione. Comunque ci vorranno dei negoziati dietro le quinte per cercare di attutire gli effetti. L'unica cosa che ci potrebbe aiutare è che sia Francia che Spagna che Portogallo hanno tutti i conti un po' fuori posto relativamente al deficit, e questo, diciamo, in un negoziato si potrebbe anche fare valere. Sì, anche perché molti ascoltatori mi fanno notare che la Francia ha un deficit stabilmente sopra il 3%, al 4%, è vero che ha un debito diverso dal nostro, però insomma tu hai ragione nel dire che il deficit strutturale è al 2,5% in peggioramento, resta sotto il 3%, cioè lì sarà un problema di tattica. No, il deficit strutturale è quello che segna, diciamo, la direzione verso il famoso pareggio di bilancio, certo, che noi abbiamo messo in Costituzione come tutti. Ed è un po' questo il problema, il 2,5 è il deficit nominale che diciamo noi avevamo detto che avremmo quest'anno aumentato dal 2,2 al 2,4, in realtà secondo la Commissione, naturalmente i dati non sono definitivi, sarà il 2,5. Quindi, e poi quello che vorrei aggiungere è che Moscovici ha molto calcato sul fatto che i rischi, i rischi negativi sulla congiuntura aumentano, non tanto dal punto di vista, diciamo, delle notizie in arrivo dall'Europa quanto da quelle in arrivo nei paesi emergenti. Quindi in questo senso, tu dicevi prima, Draghi era più preoccupato, anche Moscovici ha calcato la mano su questo fatto, mm-hmm. che appunto gli emergenti in questo momento sono delle economie che non promettono crescita e quindi che ci sarà un problema sia nelle prospettive di crescita che nelle prospettive del commercio internazionale, che quindi potranno ricadere negativamente sulla crescita europea, che è solo trainata dalla domanda interna. Sì, e questo per quello che riguarda appunto le prospettive economiche. Un'ultima nota la vorrei sul tema ormai di cui ci stiamo occupando da giorni, i rapporti tra Italia e Bruxelles, tra Roma e Bruxelles. Tu oggi hai avuto la sensazione che ci sia interesse anche da parte di Bruxelles nel chiudere il capitolo, ci risentiamo a maggio, c'è ancora parecchia irritazione? No, io credo che Bruxelles abbia tutta l'intenzione di condurre le trattative con l'Italia come le conduce con gli altri paesi e quindi nei soliti negoziati che normalmente si fanno nei corridoi a livello riservato e sotto sotto Moscovici ha invitato l'Italia a non usare la strategia del confronto ma quella del dialogo, l'ha detto in modo chiaro. Quindi penso che ci sia assolutamente disponibilità nei confronti dell'Italia, perché la destabilizzazione dell'Italia non è un interesse europeo. Quindi certamente, e poi molto dipenderà da noi naturalmente, perché è chiaro che se continuiamo a provocarli questi ti rispondono, insomma. Ma dici, tutti vorrebbero mettere la parola, diciamo, fine su questa diatriba e andare alle trattative, quelle non dico bilaterali, ma diciamo a margine degli incontri, senza conferenze stampe, senza botte. Certo, assolutamente. Senza botte. Tu resti dell'idea, per concludere Adriana, che abbiamo, non dico sbagliato, ma insomma che bisogna stare attenti a alzare la voce con Bruxelles, perché molti ascoltatori dicono vabbè, ma tanto in questi anni non abbiamo sempre detto di sì, siamo stati proni e non ci è servito a nulla. Alcuni plaudono alla scelta del governo e del Presidente del Consiglio di andare ad alzare i toni, perché come elemento iniziale di una trattativa. Tu resti dell'idea che comunque sia il caso di chiuderla questa? Ma io non trovo che noi siamo stati trattati particolarmente male perché ci hanno voluto del male. Io trovo che se siamo stati trattati male o non, diciamo, in modo conforme agli interessi nazionali, mm-hmm. è stato purtroppo troppo spesso per colpa nostra, nel senso che quando c'era da negoziare le varie regole, legislazioni europee, noi o per distrazione o per paura o per subalterneità abbiamo accettato appunto, le ultime sono le famosissime ormai regole del bail-in, che non erano nel nostro interesse e infatti adesso ne scontiamo le conseguenze. Ma non è perché gli altri sono cattivi, è perché siamo noi che non facciamo valere le nostre ragioni, ed è questo il punto. Dopodiché può capitare che nel doppio pesismo naturalmente un paese più professionale nel negoziato ottenga di più rispetto a noi, ma non è certamente urlando e strillando sulla piazza che noi possiamo ottenere quello che vogliamo. Questo che voglio dire, perlomeno qui non funziona così. No, chiarissimo il tuo ragionamento. Devo dire che nel passato anche Juncker, insomma, a mio avviso la polemica ha contribuito ad alimentarla, ma ringrazio intanto Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Do appuntamento a tutti a domani alle 17. Torna la poco invidiabile classifica di Focus Economia, parleremo anche delle case romane a prezzi di equo canone. Buona serata. Radio 24, la passione si sente.